Dargan 3-7, Gustavia e Fornelli. Fumo fiori, Rione Monti, insieme ai miei fratelli. Dark Queen, Santana, fresco Tony, baby. Prova a prenderci se vuoi, belle Daniello ai miei piedi. Dargan 3-7, Gustavia e Fornelli. Fumo fiori, Rione Monti, insieme ai miei fratelli. Dark Queen, Santana, fresco Tony, baby. Prova a prenderci se vuoi, belle Daniello ai miei piedi. Wayne Santana, fresco Tony, baby. Sto fumando tanta douche che non ci sento. Tanto parlano male di noi, finiranno al Padre Eterno. Dentro con la gang e ti rivolte il locale. Tony ti mette a testa giù come un pendente Versace. Non strisciare, rinombra, un diventi carne alla brace. Sto pensando a fare i soldi, fanculo e mi piace. Sette squali da strada, S4 per lato. Stiamo fumando 6 grammi, non so se riesci a fermarci. Dargan 3-7, Mustadia e Fornelli. Fumo fiori, Rione Monti, insieme ai miei fratelli. Dark Queen, Santana, fresco Tony, baby. Prova a prenderci se vuoi, belle Daniello ai miei piedi. DPG 3-7, penso solo a quello, sto facendo soldi, puoi chiamarmi Tony il Monello. In casa fumo Kush, buchi grossi dentro al cervello. Pione 1, non oltrepassare il mio cancello. Tony baby, guarda la giacca, pelle di cervo. La tua donna mi chiama per 3 pezzi, non sento. Parli di soldi e non vengo, puoi beccarmi giù in centro. Fumo quello, ho perso i conti, chiama mio fratello. Triplo 7 sul cielo, magico Tony baby. In giro con i miei fratelli, oro che brilla, ci vedi. La mia collana fa bling bling, senti come canta. Alzarne così tanti, sceicco di strada.